parlate al microfono innanzitutto, sperando non si sente in cuffia. No, parlate al microfono per cortesia. Sì, ora sì. Ecco, ciao. È un po' più vicino per cortesia. Vai adesso. Ciao a tutti, okay, buonasera, okay, ciao a tutti. Okay. Sistemato, ok. Quindi Roselux, perché Roselux sono qui? Perché il 9 dicembre a Forte Prenestino ci sarà un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa che vedrà sul palco tre pezzi di storia della scena, diciamo, sperimentale, elettronica, chiamatela come volete, insomma, vari componenti, appunto Roselux, i franti degli anni 80, i franti di No Future eccetera eccetera, di Stefano Giaccone e Lalli, e Ombra, che nasconde in realtà un personaggio che gravitava nell'albero dei Kina, quindi della Blue Bass, un'esperienza del punk hardcore degli anni 80 di Aosta. Saluta, e che appunto mercoledì prossimo sarà, cercheremo di, sì, esatto, perché lui credo viva a Londra, penso, mi ha parlato di un trasloco di un grande travaglio, okay, insomma, per arrivare dall'Inghilterra qua, comunque va bene, e quindi noi scandiamo i motori con Roselux. Roselux, innanzitutto, una mia curiosità personale legata al nome, ha qualcosa a che spartire, non so, sto dicendo forse una castroneria con Rosa Luxemburg, oppure no? Non fate complimenti, sì, a parlare. In realtà, sì. Ti avvicina un po', per favore? Grazie. Ha a che fare con Rosa Luxemburg. Avvicina ancora un po'. Da un testo che ho scritto un po' di anni fa, no? Claudio, te lo ricordi. E chiaramente quando un gruppo, insomma, dopo si mette insieme, non dico che è la prima cosa a cui pensa, allora che nome, che facciamo, che insomma diventa un po' un... cioè è un po' difficoltoso poi trovare un nome, soprattutto non banale. Ma non vuol... Scusa, inizia un po' vicino, un po' di più. Sì, c'è, cioè qualcosa in microfono non va, prova un po' a parlare con quello, per favore. Ecco quello, diciamo un po'. Grazie. Questo è meglio. Questo va molto meglio. Sì, mi sento anch'io meglio, effettivamente. Dicevo appunto, sì, che nasce da un testo che, cioè un raro testo che ho scritto, perché in realtà poi i testi li scrive Claudio. Dopo li presentiamo, sì, signori. Sì, assolutamente. In quel caso, vabbè, ho un po' scritto questa storia di questo personaggio femminile che conosciamo un po' tutti, spero. E Claudio dice: ma perché non ci chiamiamo in questo modo? Però da lì, insomma, ci abbiamo un po' pensato, ci sembrava un po' troppo connotato, un po' troppo connotato politicamente, ma non perché noi non siamo assolutamente, cioè siamo assolutamente vicini a questi pensieri, insomma, politici, però temevi ci sembrava una retorica, sì, insomma, tenevamo certo. Sì, effettivamente, quindi da lì, insomma, abbiamo cercato di elaborare e di non allontanarci un po' troppo dal senso del nome, ma trovare un po' un'elaborazione che lo ricordasse, ma che poi avesse anche un significato altro. E da lì sono nate Roselux, che in latino sarebbe luce nella rosa. Una bella commissione, dunque, di elementi culturali storici, se vogliamo. Assolutamente. Sì. Quegli altri elementi che sono la tua sinistra? Beh, si presentano, non per essere da formali, soli magari, ma... dai. Sì, ci sentiamo un attimo. Sì, dai. Ciao a tutti, io sono Claudio, sono le chitarre e ne scrivo i testi dei Roselux. Ciao Federico, sono il basso, contrabbasso. Sei basso anche. Esatto, tutte le frequenze basse le copro io. Ciao, io sono Marco, l'ultimo arrivato nei Roselux, sono la batteria e basta. Mi sembra anche il violoncello, vero? Sì, anche il violoncello. Il violoncello, sì. Gli strumenti in basso, diciamo. Sì, capito. E comunque, vabbè, ovviamente, dato che mi sembrate, come dire, abbastanza navigabile, no? Perché siete giovanissimi, ovviamente, quindi, ma avete un passato evidentemente ricco tutti quanti. E cominciamo da Tiziana, che facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti, insomma, molto breve. Un regalo, una cosa commovente in diretta, un regalo della Scarcerante. Grazie. Scarcerante, diciamo, è l'autoproduzione più tra i più famosi di Radio Onda Rossa, che verso la fine dell'anno ovviamente viene stampata, anche già ci si pensa agosto settembre, di questi tempi viene fatta. Fantastico. E regalata anche chi sta in carcere e chi ci viene a trovare qui in radio. Quindi un piccolo riassunto delle puntate precedenti, che te soprattutto ti riguarda, Tiziana, l'avventura dei grunge. Allora, premessa, non è proprio facile fare un piccolo riassunto delle puntate precedenti, perché insomma sappiamo che la storia dei grunge è stata lunga, dolorosa e sanguinosa. Ho avuto la fortuna che, appunto, insieme a Marco Bedini e Alessandro Denni, che adesso vive a Berlino. Tastierista era, no? Sì, tastierista, anche compositore della maggior parte dei brani dei grunge, di fondare appunto i grunge nel lontano 86? No, prima. 85. Perché 86 è uscito il primo demo. Classe differenziale. Classe differenziale, sì. Esattamente. Che dire? Non so, magari potrei fare un come ci siamo incontrati. Ecco, magari è una cosa che uno non sa, non dice mai, insomma. E perché no? Io facevo parte già prima dei grunge di un altro gruppo che si chiamavano Capocoatti. Non so, ma pensa che poi il nostro primo produttore è stato Flavio Giurato, tra l'altro. Insomma. Quello della televisione? No, quello è il fratello. Quello è il fratello Flavio Giurato. Il cantautore Flavio. No, te prego. No, sì, parente, è fratello. È fratello. Tra l'altro, io l'ho incontrato più di una volta in Rai, ma perché io lavoravo nelle mense, quindi. E lui veniva a mangiare lì in personaggio. Lui. Cioè. Chiusa parentesi. Chiusa parentesi. Sì, esattamente. Quindi noi provavamo a Via Leonina coi Capocoatti, e c'era Marco Bedini già che suonava con me e suonava la batteria. E di fronte a Via Leonina c'erano tutta una serie di cantine, cantinette dove provavano vari gruppi all'epoca, quando era bello essere negli anni 80 e incontrare tutta sta gente che provava di fronte a un passo da te, insomma. E, diciamo che i Capocoatti non hanno avuto un grosso futuro, perché si litigava spesso e volentieri. Beh, e di fronte coerentemente poi con i nomi. Coerentemente con il nome, peraltro, non essere altrimenti, dai. E di fronte, appunto, suonava Sandro Denni con un altro gruppo, ma sinceramente non mi ricordo il nome. Alla fine, insomma, ci siamo incontrati fuori dalla cantina, insomma, stavamo tutti un po' in crisi, noi coi Capocoatti, lui col suo gruppo. Ah, ma che facciamo? Proviamo a suonare insieme. E da lì sono nati i grunge. Tiziana Lo Conte, Marco Bedini e Sandro Denni a Via Leonina. Grunge, il pugile, diciamo, suonato, sentimentale. No, il grunge, il nome era il slang da pugile suonato. Esatto. E quindi tutti questi anni insieme, finché poi è finita l'avventura. Beh, è finita dopo 12 anni, insomma. Abbiamo passate, abbiamo fatto anche un bel pezzo di storia, tantissimi concerti dal vivo, insomma, i tempi stretti. Però tu vai e continua a ricordarmi, io provo a rispondere, insomma. Però non ci soffermiamo. Era giusto per un accenno. E appunto, poi tu personalmente come andai avanti con la cosa? Come hai fatto altre cose prima di Roselux, per esempio? Sei parecchi annetti, no? Prima della fondazione Roselux. Allora, praticamente alla fine dei grunge, ho incontrato quelli che adesso sono il Zoo. Certo. Quindi io ho provato con loro prima che diventassero zoo, sempre dalle parti dei Monti, a Piazza delle Zingari precisamente, dove poi suonavano prima i Raff, non so se vi ricordate qualcosa. Sì, sì, proprio la storia, volevi la storia, ti sto facendo la storia, quindi. E quindi diciamo quando i grunge ormai dopo 12 anni erano proprio giunti alla fine, io ho provato a suonare con quelli che adesso sono gli Zoo e poi altra storia ancora, altro capitolo, ma non mi sono trovata bene, ma anche perché probabilmente avevo bisogno proprio di staccare a quel punto, quindi me ne sono andata da loro e loro sono diventati quello che sono diventato. Ho capito. Colpa mia. Comunque sei sempre rimasta nell'ambito della musica comunque, oppure hai avuto pausa? No, io ho avuto anche un periodo di fermo, quindi mi sono dedicata molto al teatro. Sì, infatti immaginavo. Sì, sì. Ho collaborato con diversi registi, ho fatto anche un po' di teatro, poi ho studiato musica elettronica, ho fatto anche musica per la danza, il teatro. Ah, però alla fine sì, ho avuto un periodo in cui ho avuto proprio un rifiuto totale della musica, ma è durato 4 anni, poi mi ci sono rinfilata con tutte le scarpe. Anche grazie a Sera. Anche più di prima, devo dire. No, so. E quindi grazie a questi signori è nato Roselux. A questi grandi signori, devo dire. E come nacque Resti di una scena, il primo lavoro? Ecco, adesso passiamo la palla al signore qui. Il signore con la barba. Eccoci qua. Parliamo un po' un attimino brevemente anche di come è nato Resti di una scena, tutta questa avventura. Allora, Cristiano Luciani suonava con voi all'inizio, sì, Cristiano ha suonato su Resti di una scena e ha fatto il primo concerto all'uscita del disco, poi è stato da lì, poi sono entrati altri batteristi fino alla formazione definitiva con Marco. Resti di una scena è proprio il primo lavoro che è nato proprio dall'incontro, diciamo. Più o meno più e Tiziana ci conosciamo tanti anni, non avevamo mai fatto niente insieme, ci eravamo sempre incrociati in situazioni simili, per esempio abbiamo entrambi lavorato con un gruppo di danza Budo, anche Claudio lo stesso, abbiamo scoperto dopo che anche Marco aveva un percorso simile. Per tanti anni abbiamo parlato di fare cose insieme, però era sempre rimasto nel progetto. Il primo nucleo penso appunto di Roselux è nato da Claudio e Tiziana, che si sono incontrati per lavorare penso su delle basi, inizialmente dei lavori elettronici che aveva composto Tiziana, e lì hanno iniziato a pensare un'idea di trasformarlo invece in una forma canzone. Un passaggio fondamentale poi quello è stato, no? Quindi in quel momento è stato coinvolto Cristiano, che già lavorava con Tiziana su anche altri lavori precedenti, e niente, ci siamo sentiti e abbiamo iniziato a lavorare insieme. La prima fase è stata molto sperimentale, cioè noi ci vedevamo in sala, improvvisavamo moltissimo, e questo si sente anche la differenza, cioè, tra Resti di una cena e il nuovo lavoro. Non è che non abbiamo mantenuto sempre il discorso dell'improvvisazione, adesso diciamo se vogliamo è un po' più strutturata. Lì era proprio la base di partenza di tutto, su cui dopo si costruivano, abbiamo cercato di dare una forma all'improvvisazione. Qui abbiamo fatto forse un lavoro inverso, forzato di inserire improvvisazione a volte a pezzi che invece nascevano anche una forma già più composta. Infatti all'inizio, se non ricordo male, di Roselux era più prettamente legato a una concezione elettronica. Io mi ricordo una traccia su una compilation Electronic Girls numero 1 addirittura, dove lì c'era su Electronic Girls era un lavoro prettamente mio, solo elettronico. Sì, assolutamente. Però comunque all'inizio era più prettamente elettronica, perché diciamo che proprio la composizione dei pezzi, perlomeno la maggior parte dei pezzi del disco, sono nati idee elettroniche, idee prettamente elettroniche di Tiziana, sulle quali suonando, improvvisando, e poi c'è stato un lavoro a fine compositivo, li ha trasformati in canzoni, però lo spunto iniziale in questa fase nascevano dall'elettronica. Quindi si sente anche in pezzi dove forse l'elettronica non è predominante, però è predominante il pensiero elettronico, sì, cioè, esatto, l'attitudine proprio, esatto, che, certo, beh. Poi le collaborazioni che c'erano state sul disco, Luca Mai, no? Luca Mai, sì. Anche Emilio Clementi, Massimo Volume, no? Stava il pianista, sì, sì. Luca Midia, che c'è un attimo di amnesia, che ha dato proprio un'impronta, anche se sono non sono predominanti nel mixaggio, ma si sentono l'impronta proprio di improvvisazione libera, cosa poi abbiamo mantenuto anche dopo, però niente, questo è stata un po' la genesi del gruppo. Il primo disco è stato veramente molto suonato, non sapevamo ancora che cosa che direzione avrebbe preso, ed è stato anche registrato in maniera abbastanza di getto, appena composti i pezzi sono subito in studio e registrati subito, quindi mentre nel secondo disco c'è stato molto più tempo della costruzione, quindi anche il periodo che è passato tra un disco e l'altro dovuto a questo. Ma infatti per un disco si capiva un entusiasmo, si intuiva un entusiasmo. Speriamo che sia rimasto. No, beh, sì, chiaro, insomma. Sì. Io invece, così tanto sempre per rompere le uova nel paniere, nel Resti di una cena, che tra l'altro ho risentito proprio oggi pomeriggio, quindi, rispetto all'ultimo lavoro, ci sento, almeno mi sembra, un po' più di atmosfera chiusa, forse probabilmente anche questa attitudine di cui parlavamo sopra, cioè in realtà poi non si apre mai lo scenario, o rimane un po' più minimale, si apre solo a sprazzi in alcune tracce, mentre nell'ultimo disco c'è invece questo voler comunque sviluppare i temi, sì, portarli avanti, aprirli, e fare insomma forse un'attitudine più post rock, più qualche elemento di prog, eccetera, mentre sulla Stina Cena si era un po' più su sonorità minimali, insomma più contrite, più chiuse, poetiche. Senz'altro un bel lavoro, bei lavori tutti e due, ecco, questo è quello che oggi registravo negli ascolti. È vero, diciamo alcune tematiche sono state poi sviluppate e portate avanti nel secondo lavoro. Nel primo stavamo ancora cercando di mettere a fuoco qual era l'idea. Eppure è vero una cosa, noi finito di registrare il secondo disco abbiamo subito iniziato a comporre già nuovi pezzi, e in effetti più andiamo avanti ci rendiamo conto che la nostra attitudine è anche quella di non darci troppi limiti alle scelte, pure perché diciamo viviamo anche una fase storica in cui se da una parte è molto difficile per una situazione come la nostra riuscire a portare in giro, fare un certo tipo di discorso, dall'altro lato non esistendo più in qualche modo una scena così attiva, ci lascia anche la libertà di avere la massima libertà di fare quello che in quel momento ci sentiamo, ci va di sperimentare, quindi tentiamo sempre di sperimentare cose diverse, anche cose vecchie che abbiamo fatto in passato, abbiamo recuperato, quindi in questo senso non ci diamo dei limiti stretti. Forse l'unica definizione che ci siamo dati è quello di mantenere un discorso di ricerca, anche sperimentazione, e una forma cioè canzone in cui il testo, teso in più alto dei significati, abbia una certa risonanza. Esatto. Quindi a questo punto direi anche sentirci qualcosa da questo Feritoie. Scelgo io o avete delle preferenze? Allora direi dalla mia Feritoie, così ci dà anche il là per parlare del concetto di Feritoie, che potrebbe essere anche interessante, insomma. E quindi ci ascoltiamo dalla mia Feritoie, appunto, da Feritoie di Roselux. gente in cerca di fontane e di carne. Cammina la testa come un gran boulevard. Il fastidio dei suoi anelli sulle dita. Cammina il peso insopportabile di tutti i suoi vestiti. Passo, si snoda senza fine, un mondo incominciato da questa feritoria. Albero su albero, scorre intermittente, un mondo intravisto nel nostro finestrino. Dunque, torniamo in diretta con i nostri ospiti. Allora, feritoia è il titolo di questo lavoro. Da dove nasce il concetto di feritoia? Da un punto di vista stretto, da un'oppressione interiore, la butto là. Cos'è sto feritoia? No, è che a me ma subito intrigato, perché la feritoia, no? Sbirciale. Stai intrigato? Ma intrigato. No, ma sì. Guarda, partiamo dal termine Roselux, no? C'è, sta, sì. c'è una sorta di un termine strano, ambiguo, no? In cui c'è Rosa Lux, ma no, è esattamente la stessa cosa che abbiamo, stesso meccanismo che abbiamo usato per feritoia. Feritoia è, insomma, come tutti sappiamo, no? È il varco dal quale si inquadra il nemico su una fortezza, qualcosa esatto. del genere. Beh, insomma, chiaramente è un punto di vista particolare che noi abbiamo sul mondo, no? Però è anche vero che c'è un significante che è molto assonante alla ferita, no? E quindi probabilmente, insomma, è tutta una serie di esperienze. Noi siamo un po' agli, no? Non so come, se si è capito, tutta una serie di esperienze che alla fine formano un punto di vista particolare sul mondo esterno, e questo era feritoia. Poi tra l'altro abbiamo sentito il brano, insomma, quasi omonimo, che è Dalla mia feritoia, che è una specie di viaggio in cui una persona, immaginiamo, che attraversa il mondo e se lo vede come se fosse dal finestrino di un treno, insomma, quindi è uno sguardo sul mondo, una cosa del genere. Anche se la feritoia, ancora il finestrino lascia più spazio all'immaginazione. La feritoia sembra poi un discorso di oppressione interiore. A me mi ha fatto pensare a questo. È come se fosse difficile vedere fuori. Si intravede fuori, si spia più che si vede. Esatto, è quello che dice Grado. Si spia perché tu in velocità spii, quindi è come se guardassi da una feritoia, poi alla fine, no? Perché passa tutto. Esatto. No, non inquadri totalmente il paesaggio, lo sfiori. E l'album, insomma, ha risentito di questo, chiamiamolo, approccio fatto della feritoia. Ma guarda, non c'è una relazione esattamente diretta tra il titolo dell'album e quello che ho voluto esprimere. È un punto di vista, come dicevamo prima, insomma, è il nostro punto di vista, il nostro particolare angolo di prospettiva. Noi siamo un gruppo, insomma, un po' contaminato, no? Facciamo una cosa che sta in mezzo al guado, da una parte la forma canzone, dall'altra parte elementi di sperimentazione, di ricerca, che poi appartiene al nostro passato, al nostro, diciamo, territorio. E quindi facciamo una cosa particolare dalla quale, insomma, cerchiamo di inquadrare il mondo, ecco. Infatti questa è una bella sfida. A questo punto è la forma del cantautore. Qual è l'ispirazione? Voglio aggiungere una cosa. Siamo un gruppo di frontiera alla fine. Sì, certo, esatto. Siamo di frontiera, né di qua né di là. Infatti nessuno ci connota, siamo imprendibili. Pure questo potrebbe essere anche interessante, infatti, da questo punto di vista. E a proposito di cantautori, dov'è l'influenza, che se c'è un'influenza a livello di cantautore in voi, cos'è che vi ha messo d'accordo, se c'è? Se c'è un cantautore di riferimento, una scena di cantautore? No. Perché poi la scelta in finale di unire questa cosa interessante della sperimentazione con il cantautore, cosa che non si è mai fatta? Un elemento della poesia, insomma, che in alcuni casi, forse negli anni 70, forse negli anni 80, cioè, tanti altri cantautori non erano affatto poeti, insomma, erano ormai di successo, e quindi dicevano delle stupidaggini essenzialmente. Però ci sono stati anche le di maniera, esatto. C'è stato un momento importante, insomma, anche dei cantautori più noti, cioè, che ne so, io ricordo sempre il Lucio Dalla di Automobili, per dire, no? Vabbè, insomma, mi piace citare questo per dire che anche i personaggi hanno fatto un sacco di soldi, poi in realtà in alcuni momenti sono riusciti a fare. Sì, Anidride solforosa fu per esempio. Esatto. Io lo ricordo solo ancora, già io per me è solo quello, Lucio Dalla, Anidride solforosa. Esatto. Mi piaceva il nome. I testi erano di Roversi. Sembra già c'era Patrizio Roversi, sì, esatto. No, diciamo che insomma, poi in Italia il cantautorato è sempre un po' un argomento spinoso, soprattutto a Roma, credo, perché il cantautorato si è mangiato un po' tutto, almeno qua, no? E continua ad avere la sua ombra, a gettare la sua ombra sui nuovi cantautori. Parlo sempre del mainstream, sto parlando prima della scena dei Daniele Silvestri, Max Gazzè, e addirittura adesso, no, quando ritornano fuori con la scena degli indie rock. Insomma, a Roma è un'eredità molto pesante, no? Ovviamente non ci riferiamo esattamente a quel tipo di tradizione cantautorale, pensiamo, insomma, che la canzone d'autore sia anche un po' più ampia di quello stretto ambito che è stato connotato con i cantautori, certo, i genovesi o i romani, insomma, che hanno fatto sempre un po' quelle cose là. Però insomma, sì, tu citavi appunto Lucio Dalla, posso citare non so anche Battiato, no? che magari all'inizio sperimentava, faceva delle cose molto sperimentali con dei testi poi in italiano fondamentalmente, esprimeva una sua poetica più o meno condivisibile, adesso non stiamo a giudicarlo, ma comunque cercava di fare un discorso un po' del genere, quindi c'è anche questo, però non c'è esattamente un sentire comune che ci ha accomunato a questo tipo di cose. Volevamo soltanto cercare di fare questa, più che insomma canzonatore, cercare di avere qualcosa di letterario. Lui diceva prima poetico, insomma un termine un po' che non scomoderei, ecco. Però insomma c'è una serie di citazioni letterarie sempre dentro, sia nei Resti di una cena che in Feritoia, no? Nei titoli e cose che insomma, elementi che mettiamo in mezzo per aumentare sta complessità che già insomma non è poca. Non ci facciamo mancare niente. Scusa, lui prima fuori programma citava Vecchio, Nuovo, Che cosa c'è adesso, no? Rispetto a appunto a questa forma canzone, adesso purtroppo ci ritroviamo ad ascoltare, ma non per scelta, perché magari li mandano in radio e perché qualcuno ne parla troppo in giro, dei vari Calcutta, Motta, dei giornalisti, voglio dire, questo tipo di cantautorato trito, ritrito e insomma è anche super copiato, insomma, i Roselux sono proprio un'altra cosa, insomma, no, certo. Però ci tenevo a dire che purtroppo la scena, quella che va forte è questa. Cioè, loro ci devono fare i conti, noi infatti non ce li facciamo. No, beh, sono scelte diverse, scelte di campo. Poi noi rischiamo, diciamo la tutta, no? Ma non è vero, non è vero assolutamente. Bene, bene, a questo punto ci andiamo a sentire qualcos'altro di questo Feritoia. Ma una domanda, queste ripetizioni di Garage Möbius, che senso, qual è il senso di Garage Möbius? È molto, molto semplice. Vai, sì. Vai, Marco. Vabbè, tanto si sente uguale. E niente, alla fine ci tenevamo in questo disco a comunque mettere un po' delle situazioni improvvisate, proprio perché sì, certo. Comunque anche dopo che sono arrivato io con loro, questo humus improvvisativo è sempre stato presente e molto forte nei Roselux, e come anche la componente di suonare con ospiti e, infatti, e quindi ci stavamo arrivando, ci è sembrata un'occasione giusta, abbiamo registrato delle lunghe sezioni di improvvisazioni guidate da Luca Venitucci, cioè improvvisazioni con conduzione, e poi li abbiamo, per rendere diciamo il formato disco, il formato CD più fruibile, le abbiamo divise in tre parti, esatto, anche esatto. Forse una parte non l'abbiamo addirittura messa, che c'è uno, quattro, e uscirà un singolo inedito che sarà un hit sicuramente. Se c'è stava la hit parete, va ricordate con lei Luttazzi, miravate a quello, insomma. Il nome Garage Möbius non è altro che il nome del luogo, della sala dove noi proviamo. Ma ci ho giurato ci avessi un'attinenza con sì, qualcosa di reale, poi in realtà no, quindi vogliamo ascoltare una parte di improvvisazione. Sì, io sì. Facciamo la prima, la quarta e la nona traccia, tanto sono abbastanza brevi, giusto per darci un'idea, ok? Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Intanto sì, sta andando Garage Mebius, diverso in diversi movimenti, tre movimenti, 1, 4, 5, perché 2, 3, no, 2, 3 scomparso, perché 1, 4, 5? Ah, per la prossima volta. Ah, vabbè, sembrava strano. Microfono, avvicina al microfono. Non abbiamo cancellato nulla in realtà. Allora, veniamo alle collaborazioni. Il primo disco c'era Luca Mai, appunto, sax strabiliante degli Zoo. Straziante sax di Luca Mai. E il secondo disco invece avete cambiato un po' registro di collaborazione, insomma. Sì, c'è Giulia Kent, che violinista. È una violoncellista canadese che vive tra molto Torino, molto neofolk, giro neofolk anche lei, mi sembra anche il giro neofolk, Current 93, esatto, Anthony e The Johnson. Sì. Ha fatto un tour con lui per 10 anni e l'abbiamo conosciuta perché l'abbiamo invitata a suonare a Circuiterie. Dove che io noi parliamo anche quello, sì, sì, ne parliamo del collettivo poi. Circuiterie, sì, sì. Si è veramente una persona di una disponibilità come tutti gli artisti dovrebbero essere, ma invece hanno una spocchia che se li porta via, esclusi i presenti come al solito, esclusi i presenti. E quindi abbiamo chiesto se voleva collaborare su un paio dei brani del nuovo disco dei Roselux. Lei ha accettato in maniera molto molto rilassata e tranquilla. Lei pure con Bodaxis mi sembra suonato addirittura, Giulia Kent. Bodaxis. Forse sono andato sul complicato, sto andando. Oddio, aspetta, se l'ho visto. Bodaxis mi manca. Ma è sempre neofolk inglese, insomma. Giro più o meno quello, insomma. Però è un po' più di nicchia rispetto a quello che abbiamo citato. Okay. E poi chi c'è dopo lei? Prima hai nominato qualcuno. Fabrizio Tavernelli. Ecco, Fabrizio Tavernelli. Degli AFA. Esatto. AFA, Dischi Luca, del Mulo. Dischi del Mulo. Luca Venitucci, Alberto Popolla, Roberto Fega. Ditemi se mi dimentico qualcuno. Taver l'abbiamo detto. Questi sono. Ecco, diciamo forse quelli che ho nominato, Roberto Fega, Popolla e Luca Venitucci, loro si muovono più in un ambito improvvisativo e anche jazz. Insomma, ecco, appunto, forse, esatto. Un po' forse per questo, diceva, questa influenza, ma probabilmente è più sulle improvvisazioni, perché sui pezzi poi dei Roselux io non ci sento molto jazz. Trapela qualcosa, insomma, trapela. Forse nelle modalità nella forma compositiva, io ci aggiungerei pure un'altra cosa, invece, sempre in quest'ambito, quanta invece è poca, probabilmente tanta, me lo dite voi, di quella che è la musica classica, la chiamerei, ma in termini anni 60, cioè la dodecafonia o contemporanea. Secondo me più del jazz, cioè c'è più questo che jazz. Poi non so quello che intendiamo, Stockhouse e John Cage, questo qua intendiamo oppure no? In questo hai colto abbastanza bene nel segno, diciamo. Il jazz, se vogliamo, rientra in quanto con l'avanguardia e la musica contemporanea, diciamo tra virgolette, colta, però diciamo un termine molto, tra virgolette, di fatto è rientrato, perché come sono rientrate tutte le musiche contemporanee. A livello personale, forse io ho avuto un passato diciamo, ho suonato del jazz, però non sono mai stato un jazzista puro. E invece appunto questo discorso dell'improvvisazione, guarda, diciamo un nome proprio sempre preso le debite distanze, però che lo sentiamo molto vicino, era il gruppo di improvvisazione in Nuova Consonanza, quello storico con Evangelisti, con Mario Bertoncini, Morricone, ricordavo Morricone stava a mezzo, in cui proprio si improvvisava con tutto il materiale, anche materiale rumoristico, la forma molto aperta all'improvvisazione, ed è normale che rientrano anche echi del jazz, perché parliamo c'era anche c'era un tipo di jazz che in questo Roma è stata anche un'avanguardia in Italia, proprio quella la fase del freeze più totale, che e di fatto si incastrava, si contaminava. Facciamo un esempio come Schiaffini, è difficile inquadrarlo, suona jazz ma suona anche tutta l'altra musica, cioè, quindi certo, è quel tipo di... Anche Giacinto Scelzi, ad esempio stava a Roma, no? Dei personaggi impensabili, e invece nasce una scena forte negli anni viva. 60, che è ancora viva, ancora influente, insomma. Beh, questo è importante, vuol dire, poi, perché... Sì, anche, infatti ha avuto anche una grossa influenza. Infatti prima si parlava di come a Roma, bene o male, ma ci sono difficoltà, per esempio, negli spazi. A Roma sono spazi grandi, spazi molto piccoli, mancano gli spazi intermedi, ma in finale gli spazi ci sono. C'è una scena bene o male sotterranea che si muove, insomma. A volte sento dire non c'è la musica, non c'è quella. Io, secondo me, se uno se la va a cercare poi alla fine, ma quante ne vuoi, insomma. Ultimamente Claudio, che è l'autore di tutti i testi, lui è bravissimo a scrivere i testi. Io lo dico perché lo canto, se no mi rifiuterei di cantare. Pensavo fossi tu che scrivessi anche più testi. No, io sono di una lentezza devastante, e poi non so, brava come Claudio a scriverli. Insomma, che io nella mia vita ho incontrato lui e Marco Bedini, che non lo so, forse ammettiamo, scrivono che talmente bene che io sono pigra, quindi mi sono trovata in mezzo a queste penne vulcaniche o doga, come dice lui, e io non scrivo poco. Stavo di un'altra cosa, mi sono dimenticata. Sì, la scena, i locali, ci sono i locali, tanta ecco, musica. Dicevo che ultimamente Claudio ha scritto proprio un testo, no, che non so, voglio rispondere con questa cosa qui, che dice, vabbè, io non esco più la sera a sentire i concerti in giro perché mi vedo Netflix, no? Quindi in realtà è la storia di questo personaggio che potrebbe, anche se ha una famiglia, anche se è diventata grande, ma anch'io sono grande, loro non so, siamo più ventenni, certo. Insomma, voglio dire, ancora ci andiamo a ricercare i posti dove si suona, dove suonano, dove ci sono delle proposte. Certo, è probabilmente è più difficile rispetto a prima, perché magari prima, a cavallo tra gli anni 80 e 90, magari trovavi tantissime proposte anche nei centri sociali, certo, no? Certo. E a un certo punto hanno smesso, magari questo dovresti rispondere tu, perché non lo so, quindi sono rimasti dei posti in realtà underground, vogliamo chiamarli così, o abbiamo paura di assolutamente no, anzi, dove ci sono delle proposte tuttora interessanti, basta uscire di casa la sera e vedersi Netflix. Ma infatti, basta poi curare, siccome le passioni fanno bene alla salute, peraltro, quindi... Voglio provare io un pochino, a rispondere alla provocazione. No, Netflix, non so, anche quello cosa sia. No, non so cosa sia nemmeno quello. Oh, fantastico. Ma anch'io sono un uomo d'avanguardia, ma lì proprio non mi entra sto Netflix, non c'è niente da fare, lì proprio non ci siamo. Diciamo, semplicemente racconto così un aneddoto di come è nato in realtà questa serata proprio della radio e del Forte, eccetera, che è proprio il grande, grandissimo fantasma organizzatore di questi eventi, instancabile, e proprio è andato alla riunione del Forte per organizzare questa iniziativa e ha detto ai compagni del Forte: i franti, ovviamente con i Rosa Brooks e Londra, no, i franti devono venire al Forte. E in realtà poi sotto questo stimolo i compagni e le compagne del Forte hanno accettato di buon grado questa cosa, insomma, e erano abbastanza d'accordo con lui. Forse semplicemente in questi posti, i centri sociali, che un tempo erano stati un po' la fucina di tante generazioni e di tanti, recuperassero questa brillantezza e questo ruolo che aveva. Infatti col Forte Prensia noi stiamo approntando da un po' di tempo delle iniziative, sono rinate col Forte, il rapporto con la radio, più prettamente gothic addirittura, abbiamo fatto delle serate, insomma, sono gli Ataraxia, Winter, Severity Index, è rinato un discorso almeno a livello di Forte Prenestino, e c'è sta anche l'iniziativa del 9 dicembre inserita in questo contesto. Ho visto in realtà tante belle cose al Forte, però devi andare di giovedì, di mercoledì, di non di venerdì, di sabato, di domenica, ecco. No, dicevamo con Claudio, ma anche con Federico e Marco, che comunque insomma notavamo che il Forte è un po' ripreso a fare una programmazione interessante. Siamo stati a vedere Lidia Lanci. Ci siamo incontrati, cioè, Lidia Lanci, inaspettato un evento come, cioè un nome come Lidia Lanci al Forte, insomma. Beh sì, cioè, lei ha fatto un tour per centri sociali, penso, quel primo là addirittura, quindi lodevole, ma al di là poi a me personalmente non mi entusiasma, però lodevole. Sì, tu l'hai scritto pure poi che non ti ha molto entusiasmato il concerto. Ma pensa che proprio quella sera una persona mi ha affermato che proprio era disgustato del concerto di Lidia Lanci e mi ha detto, non so se mi ha detto una cazzata, mi ha detto: ah, ma lo sai che questa Perlino ha suonato a 35 euro e qui a 5 euro, vedi? Vabbè. Beh, meno male, insomma. Sì, vabbè. Voglio dire, almeno chi è interessato sono Rollins Band, per esempio, per i Rolling, che insomma non è sia proprio un gentiluomo. Esattamente. Sto vecchio, insomma. Che... Senti, allora possiamo andare, tanto che poi le radioserie dico il tempo è tiranno, no? Quindi direi di andarci ad ascoltare, se posso scegliere questo qua che mi piace, la Brigata Partigiana Alfavilla, mio padre, che penso sia un bel pezzo di cui parlare, insomma, ecco.